lo dà per certo Martin Krakauer nel suo elogio dello scarafaggio, che di scarafaggi ne avevano in casa anche Goethe, Shakespeare e Benedetto Croce. E se da un lato allora non stentiamo a credergli, dall'altro ci sentiamo autorizzatissimi ad averne in casa anche noi. Due sere dopo è venuto a cercare il partner e dall'insieme dei suoi comportamenti mi sono confermato nell'idea che, in quanto a processi percettivi, a rapporti fra distinto e sfondo, a geometria euclidea e a fisica della luce, la sapesse lunga. L'antropomorfizzazione a volte rende e io lo stavo aspettando. Ho acceso la luce del bagno e mi sono fermato sulla soglia. Ho cercato qualcosa che si muovesse rapidamente e non l'ho trovata, ma non sono entrato ugualmente. Ho preferito attenermi ad un secondo esame che non concernesse il movimento, ma le possibili variazioni cromatiche su tutto quello che avrebbe potuto fungere da sfondo. Le piastrelle azzurre del pavimento, il lavabo, il bordo della vasca da bagno. Era sul tappetino scuro, sotto il lavabo, immobile, consapevole del fatto che ogni preda che si rispetti, se vuol sperare di fuggire alla percezione del predatore, deve tentare di confondersi con la superficie sulla quale staziona. Armatomi prontamente del corpo contundente già predisposto all'uopo, sono avanzato deciso verso il secondo scarafaggio della stagione, puntuale all'appuntamento del primo caldo. Considerate la situazione, memore della lettura dell'elogio della fuga di Henri Laborie, è scattata la seconda fase difensiva. Scatto in circolo per disorientarmi e fuga gambe in spalla lungo la linea del bordo inferiore della vasca da bagno, dove, come gli avevano insegnato al Politecnico, mi sarebbe stato difficile colpirlo dato l'angolo retto originato da pavimento e parete della vasca in rapporto alla rigidità del corpo contundente prescelto. Potevo, se ero svelto, potevo picchiare sul punto in cui lui si trovava in fuga, insomma, ma senza riuscire a colpirlo. Lui, come aveva visto fare dai lupi della steppa a cui sparavano dall'elicottero in quel documentario televisivo, lui avrebbe accusato il colpo dandosi per morto, e io, il cacciatore, avrei anche potuto illudermi di aver terminato il mio compito. Picchio qua e picchio là, finalmente sul punto giusto, e infatti lo scarafaggio si immobilizza. Ma io so che lui ha visto tutti i documentari televisivi di argomento etologico, ecco, lo so e non mi fido. Lo osservo con attenzione e lo vedo in perfetta forma, senza un graffio, mentre considero che se io al posto suo avessi ricevuto la botta che gli ho dato, a quest'ora sarei al pronto soccorso. È in questo momento di mia perplessità che lui si gioca la sua penultima carta. Riscatta a perdifilato e prima della nuova botta riesce a svoltare l'angolo della vasca, guadagnando quel buio oltre la siepe che ha fatto comodo ad ogni fuggitivo del mondo. Giro l'angolo anch'io e non lo vedo più. Lì dietro ci tengo quella sorta di assicurazione dell'ideologia igienica costituita da un ex contenitore di insalata in plastica trasparente. Dico in plastica trasparente è l'ex contenitore, non l'insalata, almeno fino ad ora. Dentro c'è una spugnetta e la torre salvifica del Vim. Non lo vedo più perché lui sa tutto dell'opaco e del trasparente, delle teorie delle ombre, degli angoli di rifrazione della luce. È là dietro, lo so, non può essere altrimenti, ma è nel posto giusto dove non posso vederlo. Allungo una mano e sposto lentamente la vaschetta. Niente. Lui segue la zona in ombra. Si deve ammettere che la sappia lunghissima. La sposto di colpo e lui è scoperto. Ecco, il tempo di fare il suo ultimo calcolo, di schizzare verso di me, come gli hanno insegnato al corso di cibernetica classica, in modo da costringermi alla massima correzione biomeccanica del gesto, ed è morto. Jules Renard, nelle Storie naturali, definisce perentoriamente lo scarafaggio come nero e incollato come un buco di serratura. Beh, o si riferiva ad uno stadio evolutivo dell'animale molto diverso da quello con il quale lottiamo noi, oppure più semplicemente parlava del dopo. Quando Krakauer dice che lo scarafaggio non parla e non fa rumore, da buon filosofo si sbaglia. Mainardi racconta di alcuni studi dello scarafaggiologo Louis Roth, dai quali apprendiamo una curiosa vicenda evolutiva che faremo bene a tenere presente allorché discettiamo con troppa sicumera intorno a corpi viventi, organi e funzioni. È stato appurato dunque che un certo tipo di scarafaggio si avvale di una comunicazione di ordine chimico prodotta da un insieme di cellule poste in prossimità delle aperture tracheali, in grazia delle quali poi l'animale respira. In pratica si tratta di feromoni, no? Che vengono pompati verso l'esterno tramite contrazioni muscolari che, e qui sta il punto, nella loro esecuzione e con l'andar del tempo, ecco che emettono, vista la presenza di strutture rigide, hanno cominciato ad emettere una sorta di stridulio. Un stridulio che, scarafaggio dopo scarafaggio, è diventato a sua volta un mezzo di comunicazione. E Roth ha svolto un'indagine comparativa fra le specie di scarafaggi ed ha elaborato un modello evolutivo da cui si evince che in alcune specie le cellule produttive del feromone sono addirittura scomparse a favore di sempre più raffinati apparati di stridulazione situati nei pressi delle aperture tracheali. Come dire, insomma, che alcuni scarafaggi hanno gradualmente modificato il loro modo di comunicare. Né più né meno di chi di noi, che so, anni or sono, ha scelto il computer abbandonando la macchina da scrivere. Per la gioia di Aristotele, quando sosteneva che il cervello serve come refrigeratore, dobbiamo ammettere che qualcosa nasce con una funzione e che i casi della vita possono presto o tardi piegarlo a svolgerne un'altra. Come un sandalo Birkenstock può anche servire per piegare definitivamente la corazza di uno scarafaggio. Il primo scarafaggio dell'anno mi aveva dato meno da fare del secondo. L'avevo colto in campo aperto e si era presto dimostrato meno sagace in fatto di strategie difensive. Presumibilmente aveva fatto notare al suo partner che quella sera il caldo era davvero opprimente. Mai visto un maggio così. Chissà cosa ci aspetta a luglio. E non trovando conforto sufficiente in famiglia, sbuffando e di malumore, ha detto: senti, vado a farmi un giro fuori. E non è più tornato. Era ovvio che, ecco, fiducioso nei racconti che mi faccio sulla vita altrui, io aspettassi visite. Non l'ha più visto tornare e la preoccupazione ha avuto il sopravvento sulla prudenza.